Alison Roberts reports from Lisbon. Almost 11 million people are registered in Portugal and abroad to vote, including tens of thousands of Brazilian nationals who are part of... Sono le ore 11.03 di domenica 10 marzo 2024 e mentre la BBC introduce il tema delle elezioni in Portogallo di oggi, come al solito c'è sempre la lingering threat, la minaccia, la spada di Damocle di una vittoria delle destre. Questo direi che è un leitmotiv degli ultimi, credo, 30 anni. Poi vedremo se siamo davvero nel riflusso come sembrava oppure no. E nel frattempo scopro che il sito del Palazzo delle Esposizioni, che fa parte, come sapete, del complesso dell'azienda speciale Palaexpo, quindi una istituzione culturale molto grande che comprende, oltre al Palazzo delle Esposizioni, le scuderie del Quirinale, il Macro di Via Nizza, il Mattatoio e il Museo delle Periferie, che ancora non c'è come palazzo ma c'è come istituzione. Insomma, scopro che il sito del Palazzo delle Esposizioni è completamente cambiato, devo dire in meglio. Se lo andiamo a vedere, sicuramente è un grosso passo avanti, soprattutto anche il segnale della volontà di investire nel digitale, perché insomma il tema di come debba essere, più che il sito in generale, il complesso delle propaggini digitali di un'istituzione culturale è un tema, insomma, su cui mi sono speso tante volte nei saggi che ho scritto, nelle lezioni, adesso anche il prossimo corso che terrò questa primavera per comunicatori in rete del, diciamo, Digital Humanities, sicuramente affronterà il tema. E avremo tra l'altro tra gli ospiti anche proprio Giorgio De Finis, che del Museo delle Periferie è il direttore artistico e soprattutto lo è stato del Macro Asilo, di cui ogni tanto mi piace parlare perché è stata un'esperienza straordinaria, secondo me, di rottura rispetto al modo in cui viene concepito un museo nel nostro paese. Ecco, una cosa che ho scoperto per esempio negli ultimi mesi è che ci sono parecchi progetti simili al Macro Asilo in giro per il mondo. Alcuni sono ancora in vita, mi viene in mente il Savi Contemporary che c'è a Berlino, che sono sicuro che dovrò visitare perché si fonda più o meno sullo stesso principio, ma la storia, diciamo, dell'arte contemporanea soprattutto è segnata da un'incredibile quantità di esperienze che si sono aperte, si sono chiuse, hanno lasciato tracce in rete, purtroppo non abbastanza, perché mentre il Macro Asilo è un sito che esiste ancora, macroasilo.it, e pur con pochi mezzi e senza fronzoli ha adottato l'idea, diciamo, di rappresentare l'archivio del sito che si popolava mentre le iniziative lo animavano, e la gran parte invece dei progetti andati ormai in cantiere purtroppo hanno, così risentono di quel fenomeno tristissimo, ne parlavamo l'altro giorno con Simona Liprandi, della fragilità della memoria digitale, cioè il fatto che alla fine internet, che doveva essere un grande archivio di tutto quello che produciamo, rispetto a quando lasciavamo la nostra memoria su dei supporti cartacei, vinili, nastri magnetici, eccetera, internet si dimostra estremamente fragile. E naturalmente le esperienze di arte contemporanea non fanno eccezione, a meno che non faccia parte proprio del progetto. Ecco, se andiamo a vedere il nuovo sito del Palazzo delle Esposizioni, c'è una parte che si chiama archivio, che è fatta con grande intelligenza sotto forma di timeline consultabile. Poi però, quando fai click su ogni singolo pezzo d'archivio rimasto, a che cosa accedi? Accedi più o meno ad una sorta di locandina, che era la stessa pagina che promuoveva, come in una vetrina, a suo tempo la mostra, l'incontro, la presentazione del libro, la performance, quello che era. E secondo me quindi questo vuol dire aver fatto metà del lavoro, cioè aver impostato la user experience nel modo giusto, ma poi dietro ci deve essere un lavoro diverso che deve cominciare dall'oggi, cioè quando tu museo decidi che in un certo periodo tra le tue quattro mura accadrà qualcosa, quel qualcosa, mostra, incontro, performance, eccetera, deve vivere almeno tre vite digitali. Il pre, che è appunto la promozione, che diciamo che dovrebbe spingere le persone informandosi ad andare a visitare, a frequentare, a vivere fisicamente ciò che accade. Il durante, perché naturalmente anche durante la mostra devono esserci tutta una serie di materiali di approfondimento, link, insomma bisogna saper usare la rete per quello che è, cioè uno spazio pubblico dove navigare liberamente, quindi diciamo rompere la quarta parete del museo, mi verrebbe da dire. Ma poi soprattutto il dopo, cioè quello stesso oggetto che tu hai creato, chiamiamola pagina, deve essere una specie di cellula che deve contenere tutto ciò che deve rimanere di ciò che è accaduto tra quelle quattro mura, naturalmente tenendo presente tutti i limiti che sappiamo, il diritto d'autore, eccetera, però senza che il sito diventi, come oggi è quasi sempre, un sito vetrina. No, invece il macro asilo, per esempio, tutte le conferenze le puoi ascoltare sul sito, tuttora le puoi sentire in audio. Per ogni mostra c'è un video di 3 minuti che lo mostra, cioè è uno sforzo magari minimo ma straordinario considerati i mezzi che quel museo aveva. Secondo me, lasciando un'importante traccia sul metodo da seguire, no? Tutto ciò che accade deve accadere in modo che rimanga, in modo che possa essere retrospettivo. E questa è una battaglia, secondo me, fondamentale, perché se i musei continueranno a pensare a se stessi come dei palazzi e a internet come a delle vetrine che invitano a entrare nel palazzo, sarebbe un'occasione perduta. East London.